Ciao ragazzi e bentornati a Radio Italy. Oggi siamo orgogliosi di presentarvi un attore italiano che è diventato una star in Cina e che lavora a fianco di miti come Jackie Chan. Cari amici, in collegamento Skype dall'Italia, ecco a voi Christian Bacchini. Ciao Christian, grazie per aver accettato l'invito a Radio Italy. Ciao Rocco, è un piacere essere qui. Per chi non conosce ancora Christian Bacchini, ecco a voi una breve scheda. Christian nasce a Parma nel 1985, ma a 2 anni si trasferisce a Prato. All'età di 10 anni vede il film di Jackie Chan e decide che da grande farà l'attore di arti marziali. Il suo nome in cinese è Akhan, cioè sfida. Nel 2008 studia la lingua cinese per realizzare il suo sogno di andare in Cina. Allora Christian, ho detto bene o ci sono delle cose inesatte? No, hai detto tutto bene, hai riassunto alla perfezione un po' la mia storia. Senti, ma come mai questo nome cinese Akhan? Mi spieghi un po'. Il nome purtroppo me l'hanno affibbiato gli stuntmen e gli action coordinator quando cominciai a lavorare. Ormai non riesco più a strapparmelo di dosso, ormai sono Akhan in cinese, che ci posso fare? Come dicevo, tu adesso sei in Italia, sicuramente stai lavorando a qualche progetto. Dai, svelami qualcosa. Sì, io sono in Italia al momento e non vedo l'ora di tornare a Shanghai, onestamente. Comunque, sono in Italia per lavoro e sto lavorando a una serie di coproduzioni sino-italiane. Quindi c'è un progetto per realizzare 4 film in coproduzione tra Italia e Cina, un film all'anno, che saranno film di genere azione, avventura e uniti un po' a storie riguardanti leggende che in qualche modo riescono a inglobare entrambe le culture. Quindi per ora sta andando tutto bene, spero di riuscire a far succedere questa collaborazione. Te lo auguro di cuore. Grazie. Christian, come dicevo, tu hai lavorato a fianco di Jackie Chan, che è un mito, una grande star, e in cinese il suo nome è Chan Lung. Lui è conosciuto non solo in Oriente ma anche in Occidente. Ma che tipo è questo Jackie Chan? Mi dici qualche segreto se puoi? Segreto, parlando di Chan Lung, ce ne sono tanti. Diciamo che persona, diciamo sul set è molto simpatico, quasi come lo vedi nei film. Però dietro le quinte è molto professionale, non rispecchia molto l'immagine che si è creata all'interno dei film. A Jackie Chan piace l'Italia? A Jackie Chan piace l'Italia, tant'è che mi ha raccontato che un tempo lui aveva in progetto un film addirittura con Benigni, una commedia poliziottesca con Roberto Benigni. Poi ovviamente mi ha detto che è andata in buca, immagino per i soliti, la solita genialità dei produttori italiani che non capivano il bene del progetto e quindi è andata in buca, ma in realtà lui l'Italia l'ama tanto e tant'è che voleva anche lavorarci in Italia un tempo. Vuoi vedere allora che conosce anche tipi come Bud Spencer e Terence Hill? Ma li conosce bene, anche perché ora questo è un segreto, non si dovrebbe dire. E ma dillo al Radio Italista segreto, dai, facciamo lo scoop. No, se si vede lo stile di Jackie sullo schermo, tira le padellate, usa tutto quello che trova per combattere, pesci surgelati, carrelli, e Bud Spencer e Terence Hill facevano lo stesso, le famose padellate col ton, Facevano un pochino cose simpatiche per menare gli avversari. Quindi guarda che lo stile di Jackie secondo me un po' è stato influenzato da Bud e Terence, questo lo dico vagamente, ma in realtà pensateci. Ma te l'ha detto lui? Questo non si può dire. Senti, però il re per eccellenza del Kung Fu è senz'altro Bruce Lee. Ma quante volte hai guardato i suoi film? Hai imparato qualcosa da lui? Perché so che ti piace. Sì, io di base ho sempre considerato Jackie Chan più il mio punto d'arrivo. Però il re indiscusso e anche quello che ha più fascino sullo schermo è Bruce. Bruce Lee era un grande, io ho le VHS, le vecchie VHS, ormai se le metto nel videoregistratore non si vede più niente, le ho consumate completamente. Perché io quando ero bambino volevo imparare anche le movenze, le tecniche, i colpi. quindi le guardavo a ripetizione. Dalla Cena con Furore è quello che preferivo di più di tutto. E tuo padre non è che ti menava quando tu guardavi tutto il giorno questi film? No, sì, buonanotte, anzi era lui che a volte mi diceva: guarda, c'è questo film, guardiamolo. È lui che mi ha iniziato a vedere i poliziotteschi, western, i film di Kung Fu. Su Teleprato, esiste Teleprato, sì. Teleprato, sì, cioè, esiste TV Prato. Che io saluto. Senti, ma che cosa hai imparato stando a così stretto contatto con Jackie Chan? Ma diciamo, la cosa più importante credo sia il modo di rapportarsi sul set durante il lavoro con la crew e con lo stunt team, con gli stuntmen. Jackie è arrivato a questi livelli di successo proprio per il suo fare professionale e quasi è diventato un padre di questa grande famiglia di acrobati, artisti marziali che lo seguono da anni nei suoi film. E quindi più che altro devo dire è proprio la professionalità che mi ha insegnato nei confronti di coloro che si fanno male o si stancano in modo estremo per lavorare con me durante le scene d'azione. Il rispetto anche per questi professionisti del cinema d'azione. Immagino che tu lo scruti, lo osservi. C'è qualcosa che gli invidi? Qualcosa che gli invidio? Questa è una domanda interessante. Invidio il fatto che lui ha avuto la genialità in tanti film di eseguire delle stante particolari ed è stato il primo a farlo. Quindi salto da un tetto all'altro, oppure in The Accidental Spy quando si buttava dal camion giù dal ponte, attaccato alla ringhiera del ponte. Quindi certe cose che io magari da bambino sognavo, poi lui le ha rifatte nei film, quindi gli invidio il fatto di essere il primo a aver creato queste scene. Senti, se dico Jean-Claude Van Damme, che ti viene in mente? Come lo definiresti? Io lo definirei uno che spacca, anche perché faceva la spaccata molto bene, era il primo che la faceva in Occidente. Però anche tu non scherzi con le spaccate, o mi sbaglio? Io ho fatto le spaccate poi e sono diventate il mio pane quotidiano, ma anche grazie a lui, ero affascinato dalla sua famosa spaccata sul ring e quindi ha influito anche su di me, insomma, Jean-Claude Van Damme. Senti, ma quando mi inviti sul set per vederti fare sta spaccata? Presto, appena torno in Cina, spero presto, se è possibile. Mi spacchi detto. No, io sono pacifico, dai. Insegna a fare una spaccata, così la fai anche te a fare. Mamma mia, no, dai. Chuck Norris. Chuck Norris mi viene in mente il classico texano cowboy che me a destra e a sinistra. Texanone. Sony Chiba. Sto giapponese. Sonny Chiba io lo definirei l'altra faccia del cinema orientale. E la faccia più dura del cinema d'azione orientale. Mentre a Hong Kong, in Cina, c'erano questi film più volanti, magari anche a livello marziale più elaborati, ma Sonny Chiba menava e distruggeva arti e faceva male, insomma. Un bello stile karate violento che comunque ha fatto storia anche lui dal lato giapponese, insomma. Quindi lo definirei l'altra faccia del cinema orientale. Tornando in Italia, il mitico Fabio Testi. Fabio Testi lo definirei come potrei dire, immortale, perché lui oggi è l'unico attore culto italiano che faceva spaghetti western e poliziotteschi che ancora lavora in Italia. Ne ha fatto un film l'anno scorso in Turchia, ora ne farà un altro in Australia, quindi è bello come personaggio perché va avanti, non si è lasciato andare, vuole sempre lavorare, ora infatti ha lavorato con me in Cina e nei prossimi progetti vuole essere coinvolto e quindi lavoreremo insieme ancora presto sugli schermi e sui set cinesi, quindi è immortale. E un aggettivo per Bud Spencer? Un aggettivo per Bud Spencer io lo definirei sua maestà. Bud Spencer, voglio essere onesto, di tutti, Jackie Chan, Bruce Lee, gli italiani, Fabio Testi, Franco Nero, Sonny Chiba, Alexander Kushen, tutti gli attori che io amavo, ma Bud Spencer credo sia proprio sua maestà. L'influsso che mi ha dato lui a livello cinema e la passione che mi ha infuso, il divertimento che provavo nel vederlo menare, tirare i famosi colpi del piccione in testa ai cattivi, è nessuno mai, nessuno mai. Allora, a sto punto non può mancare Terence Hill. Terence Hill è l'altra, il braccio, lui è il braccio sinistro di sua maestà, lui è il braccio destro, come erano quelli del diavolo in Trinità. E la coppia io penso sia forse a livello italiano la coppia che è riuscita a raggiungere fama internazionale più di tutti gli altri. Sono conosciuti ovunque, America, Germania, e Sonny Ray. Uno dei miei sogni sarebbe fare un film anche con loro, un passaggio di testimone in cui si riuniscono per una volta e tutti in tre alla fine spacchiamo a destra e a sinistra, e sarebbe lì. Senti Cristian, tu sei l'unico italiano fino adesso che le botte le dà ai cinesi. Ma nella vita ti capita pure di menare? No, dai, non sei, tu sei un buono. No, io sono sempre stato, cioè, di carattere sono un po' irascibile, devo essere sincero, specialmente a livello lavorativo, se qualcosa non torna o qualcuno non si comporta in modo professionale, mi arrabbio, proprio fa chi ci, come dicono i cinesi, che impazzisco, però non ho mai menato nessuno, insomma, penso sia uno dei simboli di chi fa le arti marziali, mena per passione, ma nella vita reale è caldissimo, insomma, non alza le mani su nessuno. Da poco è iniziato l'anno della capra, tu di che segno sei, se così si può dire? Che animale sei? Che animale sono? Io sono il bue. Oh, sei un bue. Sono un bue, dell'85. Sai Cristian, ho pensato ad un ruolo perfetto per te. Potresti fare un poliziotto italiano che dà la caccia a un insegnante d'italiano abusivo che lavora in un'associazione cinese e poi alla fine tu, invece di arrestare tutti, ti innamori di una sua corsista cinese e da quel giorno non puoi più fare a meno della Cina. Che ne dici? Il ruolo, devo essere sincero, mi ispira, lo trovo molto interessante perché è una cosa che fa parte da una, da un lato molto italiano a livello culturale di storia e poi alla fine finisce per sfociare in amore estremo per l'Oriente. Quindi lo terrò a mente e ci lavorerò. Sei simpatica. E qual è il film che hai girato e che hai amato di più? Il film che ho amato di più, diciamo, penso parlando come attore, perché io sono sempre stato attento anche al lato recitativo, non solo quello delle mazzate. Credo sia stato appunto il film dove interpretavo poi il protagonista sordomuto, che si chiama Deficit in inglese, che poi in realtà è stato rilasciato al di fuori della Cina, e era questo protagonista sordomuto, quindi potevo usare solo gli occhi per esprimermi. E quindi solo lo sguardo, l'intensità, era una sfida interessantissima. E alla fine questo ragazzo con questo grande deficit sfociava in un giro, in un baratro fatto di violenza per salvare una ragazza che amava, e alla fine, vabbè, spoiler, perché perde la vita, e quindi è un ruolo, penso, che rimarrà impresso nella mia mente per sempre. Se è il film simbolo che poi mi ha lanciato là è proprio il Tyler, il deficit. E c'è un film invece che cancelleresti dal tuo curriculum? Un film che cancellerei dal mio curriculum, diciamo, cioè, è un film che in realtà era una trilogia di episodi, un po' come i racconti della cripta, ma versione Kung Fu. E quindi c'erano tre storie diverse che si riandavano a allacciare poi tramite un filo conduttore che era un insegnante di Kung Fu, ma purtroppo i registi di questi tre corti erano praticamente vabbè, non esprimo opinioni, quindi questo lo lascerei fare. Il primo esempio di film a episodi sul Kung Fu è stato un fallimento totale, proprio cancellarlo. Ascolta, ma tu parli il cinese, ho letto nelle tue biografie, ma io sì. Ti capita qualche volta che non capisci che stanno a dire questi? Non capire non tanto, se parlano forse troppo veloce, magari ci mischiano mezzo dialetto di un'altra provincia, allora non capisco niente. Mi succede anche sul set, cominciano in mandarino, poi passano a parlare, non lo so, il dialetto di Henan e io mi perdo. Ma che avete detto? Parlate come mangiate. I giovani cinesi amano le arti marziali, amano il Kung Fu o amano di più il basketball per via di Yao Ming, che è il campione internazionale? questo è un po' un paradosso. Il film d'arte marziale in Cina va fortissimo, tant'è che anche nelle soap a volte ci scappa la rissa del combattimento casta e spada, però i giovani, diciamo che per loro la pratica del Kung Fu è una roba da vecchi. Me lo sono sentito dire tante volte quando iniziai, parlavo, sì, io pratico Kung Fu, voglio fare cose, fanno, ma è roba da vecchi, ma che? Ma che fai? Ma perché? Sei giovane, fai altro. No. Però basket sicuramente va fortissimo, poi appunto con Yao Ming va alla grande, ma soprattutto adesso c'è un grande influsso delle arti marziali miste americane, le famose MMA, e loro stanno orientando i giovani, sento molti dire che vanno a praticare MMA o box thailandese, queste arti un pochino più brutali, più veloci da imparare, insomma. Ritornando invece in Italia, ti dico subito che ci sono 20.000 praticanti di Kung Fu. Potresti dare un consiglio a chi vuole avvicinarsi a questo sport, a quali centri rivolgersi e se ci vogliono delle qualità fisiche particolari per iniziare questa attività? Io, i praticanti di Kung Fu sono tanti e stanno aumentando, per fortuna. Purtroppo in Italia sai che è tutto monopolizzato dal calcio, dalle cose simili, quindi stentano le associazioni. Però ci sono. E chi vuole avvicinarsi a questa pratica posso dare solo un consiglio, di stare attenti a chi trovano, ecco, perché ovviamente non essendo in Cina ci sono anche tanti maestri italiani che si possono spacciare per cosa che in realtà non sono, ecco, quindi bisogna stare attenti e scegliere con cura. Ora io evito di fare pubblicità gratuita in trasmissione, però devono cercare, provare magari in un'associazione, provare in un'altra, passarne 5 o 6 di prova e loro capiranno da soli quale in realtà è il maestro serio e qual è poi colui che possa portarli su una strada veramente originaria di Kung Fu cinese. Molte sono le donne che fanno le arti marziali, tra queste c'è anche una mia amica che si chiama Marina Perotta, fa la giornalista, è di Napoli e che saluto. Ciao Marina! Saluto anch'io, ciao Marina! Infatti perciò mi sono fermato, la dovevi salutare pure tu. Comunque Marina mi ha chiesto di farti questa domanda e dice in Italia Bruce Lee è stato un attore molto amato e sono molto famosi i film su Ip Man, che è stato anche il maestro di Bruce Lee ed è il fondatore del Kung Fu a Hong Kong. Credi che ci sia ancora margine per ispirarsi a questi personaggi per qualche nuovo film? Questa è una bella domanda. Diciamo che a livello filmografico, per esempio, Ip Man è stato veramente usato e riusato. Hanno fatto i film con Donnie Yen, hanno fatto Ip Man Zero, Ip Man da vecchio con Anthony Wong. È un pochino, come si dice, ormai fuori tempo, hanno già spremuto troppo il personaggio, però ci sono tanti maestri di arti marziali su cui potrebbero essere fatti dei film, quindi ispirarsi a questi personaggi è una buona strada anche per ricordare al pubblico cinese e anche occidentale, quando questi film vengono rilasciati al di fuori della Cina, di questo grande patrimonio culturale. Quindi sì, direi che possiamo provare maestri e nomi da portare sul grande schermo. Ho letto sul China Daily che tu eri stato scelto per fare Ip Man 2, raccontami un pochino questa cosa. Ah sì, questa sì, l'intervista sul China Daily risale appunto ai tempi di Ip Man 2, quando io ero appena arrivato in Cina e avevo incontrato i produttori per il ruolo del cattivo principale del film, che era Twister. Prima che venisse deciso che fosse un peso massimo di box, che ovviamente a livello fisico io non tornavo più. Quindi quando non era ancora stato deciso il personaggio, sì, ero in trattativa per interpretare questo Twister. Poi per fortuna, decisero di fare di Twister invece che un marzialista, un boxero, quindi molto occidentale, cattivone, non tanto bravo a livello marziale, quindi solo pugni, e il ruolo poi appunto non fu più per me. Per fortuna, perché è un ruolo che io non credo avrebbe giovato alla mia carriera, tanto che la mia ragazza quando andammo al cinema disse meno male che non l'hai fatto, che non sei riuscito a prendere il ruolo, perché un ruolo così ti distruggeva le gambe, ti odiavano tutti in Cina se lo facevi te. Bene, sei stato fortunato allora. Quella mi è andata bene davvero. All'epoca pensavo di essere, no, dico cavolo, Ip Man 2 con Donnie Yen lo voglio fare, invece mi è andata bene, insomma. E dopo tanti anni che sei in Cina, ti sei abituato alla cucina cinese, preferisci più il tè o il caffè? Insomma, qual è la dieta tipo di Christian Bacchini? No, io allora il caffè a prescindere non l'ho mai bevuto, nemmeno in Italia, quindi nemmeno lo bevo ora, non è che mi arrivi di tanto. E a livello cibo sono internazionale, io vado, sono grande amante del cibo cinese, di tutte le province più disparate, però anche quando sono in Cina, anche quando sono stanco, mi voglio rilassare, ho un bel pizzone, una bella lasagnona, la vado sempre a cercare, cioè ci vuole un misto, bisogna fare un misto. I tè cinese sono grande fan, io infatti bevo tè tutti i giorni, anche a sera, a mezzanotte, mi ingozzo di tè. E ti fa dormire? Dipende dal tipo di tè, a volte mi tiene sveglia, a volte mi fa dormire, dipende. E parlando ancora della tua dieta? Mangio 3 pasti al giorno, di colazione, pranzo e cena, non spelluzzico tra i pasti, magari faccio con lo spuntino a mezzanotte quando sono particolarmente stanco, mi prende più energie, e mangio un po' di tutto, quindi le carni rosse, anche se dicono che vanno evitate, le carni bianche, tanta verdura ovviamente, anche latticini cerco sempre di trovare, perché secondo me a livello fisico avere in corpo tutto, proteine, carboidrati, dà sempre più brio in più, quindi cerco di mangiare regolare. Senza andare a cercare diete particolari o devo evitare quello o quell'altro, per ora insomma mi sta molto bene. Senti, ma quando torni andiamo insieme al KFC, che dici? Vabbè, il KFC, se mi invitate vengo, dai, potrei farmi evitare. Vabbè, tanto poi le consumi subito queste calorie. Ah, quelle sì, posso mangiare 3 tonnellate di alette di pollo e il giorno dopo sono già sparite del tutto. Cristian, tu sei sempre circondato da belle donne. Come la mettiamo con la tua ragazza? È gelosa? Quella è dura. Io infatti a volte ho rischiato il linciaggio. Più di una volta l'ho rischiato, insomma, specie all'inizio della mia carriera. Perché ho conosciuto la mia ragazza quando io ancora non ero famosissimo. Quindi mi ha visto proprio nascere come star. I primi tempi, quando c'era la scena di bacio, del ballo così, era lì che mi guardava, no, dietro al regista con gli occhioni iniettati di sangue. Adesso si è abituata, insomma, alla cosa. Ma i baci li dai davvero o è tutto finto? Ah, li dai davvero, se no che gusto che è. Bisogna essere aperti fino in fondo, no? E le mazzate le dai davvero o sono finte? Mazzate, diciamo che il stile orientale, il 70% sono vere. È per questo che a livello visivo i film cinesi di Hong Kong sono più belli, insomma. Con le protezioni, ovviamente, tutto quello per la sicurezza, ma certe mazzate vanno date davvero. C'è un'attrice a livello internazionale con la quale ti piacerebbe lavorare? Mi piacerebbe lavorare un po' con Milla Jovovich, per dire, anche se adesso si è data a Resident Evil e a queste cose, a queste americanate hollywoodiane, ma mi ha sempre affascinato sia come volto, come estetica, a quel fare sia da dura ma anche molto tenera in certe scene, e quindi sarebbe un'attrice con cui vorrei fare un bel film insieme. La seconda, se posso dirlo, sarebbe Michelle Khan, che è l'attrice malesiana che ha fatto anche film con Jackie Chan e che adesso lavora poco, ma che ha, secondo me, ha quel look da donna femme fatale orientale che in futuro magari avrò questa chance anche con lei. Ma senz'altro, e comunque te lo auguro. Grazie. Carissimi amici di Radio Italy, state sentendo che il ragazzo simpatico è Christian Bacchini, è molto spiritoso, oltre che essere un grande attore. Vorrei ringraziare anche vivishanghai.com, nella persona di Michele Soranzo, che mi ha permesso di avere i contatti di Christian. Ringrazio anche io Michele, perché mi ha fatto una delle interviste più belle, credo, scritte di tutte quelle che ho fatto in passato sia in Cina che in Europa, e lo ringrazio anche per avermi presentato a te, perché anche tu mi hai fatto delle domande veramente fantastiche, simpatiche e penso interessanti per te, quindi ringraziamenti a tutti e tutti. Grazie. E hai una pagina Facebook o un sito internet dove possono contattarti? Io non glielo do il tuo numero di telefono, No, il telefono, vabbè, quello è segreto, tutto, non vorrei che la mia ragazza cominciasse a vedere messaggi in istante, pensa che siano di ambiatrici varie, no? Però, diciamo, adesso, dato che mi sto allargando all'Italia e voglio aprire questi ponti, la pagina Facebook è Christian Bacchini International Martial Art Actor, è la mia pagina ufficiale, e quindi tutte le news, anche per chi vive al di fuori della Cina, sono su quella pagina. Bene, bene, bene, è ora di dirsi ciao e prima di salutarci ricordati la promessa che mi hai fatto di farmi fare una piccola parte in uno dei tuoi film, d'accordo? Vai tranquillo, mi ricordo, e hai già un posto pronto sul set, un ruolo cucito su misura per te. Di commedie dove meni, non ti meni te gli altri. Ma io tra te e Jackie Chan mi vedo già fatta polpetta, guarda. No, facciamo una scena dove sei te che meni noi. Oddio, vabbè, quindi questo va bene, ho capito. Va bene, ci sto, ok. Grazie veramente tantissimo, non sai quanto piacere mi hai dato. Io ringrazio te, è stato un piacere per me, e salutami Shanghai e ci vedremo al mio ritmo, di sicuro. Con piacere. Ciao Christian! Ciao Rocco, ciao a tutti, arrivederci. Cari amici, la puntata di Radio Italy finisce qui e ringraziamo di nuovo Christian Bacchini per la sua disponibilità. Se avete delle domande, delle curiosità, se volete essere intervistati, potete mandarmi un'email a radioitaly@outlook.com. Se volete potete anche dare uno sguardo al mio blog, che è sempre radioitaly.myblog.it. Grazie da Rocco Carbonaro e alla prossima, ciao!